quale sciaguna? Il vino! Con squalo armato di pastori suoi amici, tra il più folto del bosco nella caccia, rapi tua figlia! Il vino! Non tardici un momento ad inseguire, ad arrestar l'indegno. Sollecito Filindo con la parte più scelta di mie guardie. Tu vanne in traccia e in tuo poter sei il rendi premio, non vi l'attendi. L'offesa al mio signore